Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Daniel guardava Stephanie nel punto in cui la camicetta si chiudeva sui seni. Guardava le caviglie fasciate dal nylon al di sotto della cascata di seta che stava imbastendo. Daniel ardeva di passione. La signorina Wells lo guardava consumarsi. «Gli abiti, disse lui, servono a tenere caldi, non a rendere magnifici. Relir. L'abito talare spesso era come un odore imbarazzante o un'eruzione cutanea. Talora la gente cambiava scompartimento sul treno vedendolo entrare. Lui lo indossava perché pensava che se le regole esistevano bisognava osservarle, ma certo non era piacevole. Quest'ultima osservazione ebbe l'effetto di attirare la loro femminile attenzione sul suo corpo, nell'abito immenso e lucido. Daniel sentiva il sudore scorrergli lungo le braccia e la fronte lustra come il fondo dei calzoni. Si sentì deriso, disse: «Devo andare». La signorina Wells levò un dito: «No, no. Stephanie, mia cara, fai tu gli onori di casa. Offri a Daniel un biscotto all'arancio, per favore». Stephanie si alzò, prese un barattolo di biscotti, quello floreale, e si avvicinò a Daniel, il fianco contro la sua spalla, il seno che gli sfiorava il viso mentre si chinava verso di lui con sollecitudine. Le sue gonne, indossava gli strati di prammatica di sottovesti inamidate, frusciarono. La camicia era rosa scuro, i capelli le ricadevano sulla guancia dorata, ondulati e folti. Daniel si sentì invadere da una rabbia soffocata. «No, grazie, non ne voglio». «Ma sì, ne prenda uno», lo esortò Felicity Wells. «Andiamo», disse Stephanie con insolita insistenza. «Un piccolo peccato di gola. Sto cercando di dimagrire». «Soltanto uno», si ostinò lei assurdamente. «Non farà una grande differenza». «Per la mia ciccia? Oh, invece sì. Potrei strappare l'unico abito che possiedo. Lasci perdere, metta via quei biscotti». Invece lei restava lì e rideva, porgendogli il barattolo. «La prego!» Daniel era esasperato. «La prego, non insista, ho detto di no, non ne voglio, santo cielo, cerchi di capire!» Lei chinò la testa ed esitando fece un passo indietro. All'improvviso la signorina Wells si mosse velocissima malgrado la crinolina, borbottò qualcosa come «scusate» e «bagno» e sparì. Daniel si prese la testa tra le mani. Aggrappandosi ai propri capelli, sentiva Stephanie che si muoveva per la stanza, a disagio. La sentì dire: «Non capisco perché ci si comporti in modo così tremendo quando qualcuno cerca di dimagrire. Come se ci si sentisse autorizzati a immischiarsi. È strano». Daniel si sentì la roba che voce ribattere. «Non solo quando si cerca di dimagrire. Si direbbe che la gente si senta autorizzata a immischiarsi ogni volta che uno cerca di resistere alle tentazioni». Stephanie indietreggiò fino alla mensola del camino e vi distese il braccio tornito, lanciandogli un'occhiata furtiva. «Sarebbe a dire? Alla gente piace offrire biscotti e altro. È un esercizio di potere. La donna mi ha tentato e io ho ceduto». «No, davvero?» Il volto di lei si accese assumendo il colore del vestito. «Non può farmi un sermone sui biscotti all'arancio. Sarebbe teologia a buon mercato». «Mi dispiace che il mio stile non le vada a genio». Era offeso e non lo nascose. Evitò di guardarla. Si sarebbe senz'altro dispiaciuta. Era una ragazza così gentile. Chissà se si rendeva conto di ciò che stava accadendo. Con gli occhi fissi sul tappeto, Daniel aspettava che Stephanie provasse imbarazzo per il suo scatto d'ira. Stephanie fece dietro front sul tappeto e venne a mettersi vicino a lui. «Daniel, mi dispiace. Non intendevo essere sgarbata. Non so perché sono così sgarbata con lei». «Non lo sai», disse Daniel tra sé. «Com'è che non lo indovini?» Continuavano a fissare il pavimento. Ardeva. Dopo un attimo, incredibilmente, lei allungò una mano e gli accarezzò i capelli. Anche l'intrattabile Daniel cominciò a tremare. Si piegò in avanti a occhi chiusi, l'afferrò, l'attirò a sé e affondò il volto bruciante e furioso nel grembo rosa delle sue gonne. Stephanie si irrigidì, tremava anche lei adesso, poi fece un passo avanti per mantenere l'equilibrio e gli circondò il capo con braccia leggere e protettive. Lui le premette il volto contro le cosce, collandole. Sentì che diceva: «Va tutto bene, va tutto bene». Pensò: «Tu non sai, non sai cos'è». Mormorò tra le stoffe: «Io voglio, io voglio». E si ritrasse di scatto quando la signorina Wells, altro esempio di regia e programmazione come esercizio del potere, rientrò nella stanza. Colse al volo la situazione e le brillarono gli occhi. Conversò del più e del meno per 10 rinfrescanti, persino piacevoli, interminabili minuti. Infine li congedò maestosamente. Dopo aver disceso una rampa di scale, Daniel si fermò sul pianerottolo. «Io vivo qui». Stephanie annuì, senza guardarlo. «Le va di entrare?» Fino a quel momento non sapeva se gliel'avrebbe chiesto. Lei entrò. Daniel accese un tutte le sue iconiche lampade. Poi sedette sul letto. «Cosa posso dire adesso?» le chiese quasi arrabbiato. «Non deve dire niente». «Oh, certo che devo!» stringeva i pugni. «Non può continuare a comportarsi così con me». «Le ho detto che mi dispiace. Non avevo intenzione di provocare». «Oh, no. Lei è gentile, così gentile. Voleva solo essere gentile». «Non me ne vorrà per questo». «Non gliene voglio». Tirò un grosso sospiro. «È solo che...» «Farebbe meglio ad annodarsi la sciarpa e a tornarsene a casa. Lei non è una sciocca e sa benissimo che la cosa migliore è tornarsene a casa. Quanto a me, farò in modo che non accada più». «Non le sembra di esagerare? Le ho detto che non volevo offenderla. Perché mi congeda in questo modo?» «Sa benissimo che non si tratta di questo. Stia a sentire. Non è stata lei a cominciare, intesi? Sono stato io. Lei voleva solo essere gentile. Perciò è meglio che se ne torni a casa e ci resti per un po', per favore». «È talmente sicuro di avere ragione. Perché complica tanto le cose?» «No, è semplice buonsenso». Raccolse le forze e proclamò senza mezzi: «Io la amo. Voglio sposarla. Voglio... Non voglio complicare le cose, ma devo affrontare la questione e risolverla. Interferisce col mio lavoro». «Non è possibile che voglia sposarmi». «Invece è esattamente quello che voglio», disse Daniel con fermezza, come se non esistesse altra possibilità di risposta. Quasi s'aspettava che lei, davanti a quella sfrontata dichiarazione, prendesse e se ne andasse. E quasi sperava che lo facesse. Sorprendentemente, invece, lei disse: «Sempre così». «Sempre così cosa?» «Tutti vogliono sposarmi. È spaventoso. Credo di avere un'aria... Non è sex appeal. Sempre offerte di matrimonio. Credo di avere un'aria rassicurante. Qualcosa che non ha niente a che vedere con me. Evidentemente ho una di quelle facce che si scelgono per la pubblicità delle sigarette. Una faccia archetipica da moglie. E quasi umiliante». Daniel era furioso. «Oh, capisco. È un suo problema ricorrente. Un sacco di uomini incauti. Me lo merito. D'accordo, mi dispiace. Vada a casa, per favore». Stephanie si mise a piangere silenziosamente. Poi sbottò: «Non uno che mi dica: andiamo a ballare, facciamoci una vacanza, andiamo a letto insieme. Niente del genere. Solo voglio sposarla. Con una specie di spaventosa venerazione. Non lo sopporto, non lo capisco». Daniel si alzò e la fece sedere sul letto, dove tornò a sedersi anche lui. «Potrei spiegarglielo io, ma non vale la pena. Non si tratta di spaventosa venerazione. È solo che la voglio. Meglio sposarsi che bruciare di passione. Io la voglio così com'è, sposata con me». «Non sia arrogante. Dunque se n'è accorta? Beh, ho ottenuto quasi tutto quello che voglio veramente, ma questo no. Ho pregato per riuscire a liberarmene». «Come osa?» «Cosa?» «È orribile discutere con me con... Io non discuto. Non voglio essere oggetto di preghiere. Non credo nel suo Dio. Non ho niente a che vedere con...» «Una ragione in più per non avere speranza», disse Daniel, arrabbiato quanto lei. «La sua chiesa si occupa troppo del sesso. Se intende dire che fanno troppi sermoni sul sesso e che parlano come Freud, come se tutto fosse sesso e non esistesse altro, allora sono d'accordo con lei. Ma non sono nella posizione di giudicare. Prima d'ora non me ne ero mai preoccupato. Ecco tutto. Oh, Daniel, mi lasci in pace. Daniel. Allora si girò, la sollevò di peso tra le braccia e la portò sul letto, che cigolò per protesta mentre vi si stendevano. Stefani fissando il soffitto sopra la spalla di lui, Daniel con il suo peso, tutto il suo peso, sopra il corpo di lei, i loro visi umidi di lacrime sul cuscino. Daniel si mosse leggermente e vide uno spiraglio nella camicetta. Lentamente, diligentemente, la sbottonò, fissando con inquietudine, meraviglia e dolore, i seni e la gola d'oro pallido. Infilò una mano invisibile maldestra sotto la gonna e sentì la gamba liscia e tiepida. Rabbrividì. «Va tutto bene», disse Stefani con gli occhi sempre fissi al soffitto, come aveva già detto tante volte quella sera per rassicurarlo. «Andrà tutto bene». Dennis scosse sfibrillato la sua pancia enorme e nascose la faccia nel seno che aveva scoperto. Con dita esitanti o svogliate, come poteva saperlo, Stefani gli accarezzava i capelli. Udì che rapidamente, uno, due, si sfilava le scarpe. Aprì qualche altro bottone e la cintura. In un attimo di frenesia la sua mano corse sotto il seno, dentro il vestito, stringendo le costole palpitanti, la traccia vibrante della spina dorsale. Là, sotto di lui, nella sua stretta. Daniel sollevò la testa e diresse la bocca verso quella di lei, che era tiepida e si aprì morbida e dolce, arrendendosi. Si puntò goffamente su un ginocchio con tutto il suo peso e vide, accigliandosi, l'espressione di Stefani. Continuava a fissare il soffitto. Daniel si scostò. «No, lei non sa quello che vuole». «Lo so, Daniel, lo so. Va tutto bene». Era quasi un lamento. «Va tutto bene, va tutto bene. Perché si ostina a ripetere che va tutto bene? Non mi basta! Io voglio di più, e comunque non è vero che va tutto bene». «Già, avrei dovuto pensarci. Non può, certo, farebbe una cosa sbagliata». Stefani in realtà ci aveva pensato. C'è una sorta di piacere nel trasgredire i veri tabù, perfino per i moralisti come i Potter, forse soprattutto per i moralisti come i Potter. «Se è così, è affar mio. Adesso si tiri su. Si tiri su!» «Non sia villano. Bisogna sapere quello che si vuole». «Non si prendono certe decisioni a sangue freddo, tesoro mio». «Oh, sì, certo che sì. Riguardo a molte cose che contano davvero. E non mi chiami tesoro. Non lo sono». «È troppo duro con me», disse Stefani ricominciando a piangere. Si era rannicchiata sul letto e cercava di risistemare gli abiti in disordine. «Se ne vada, per favore», disse Daniel con durezza, distogliendo gli occhi, incapace di muoversi. Un'immobilità provocata in egual misura da orgoglio, desiderio e educazione. Lei si era rimessa le scarpe. Vedendo che Daniel non accennava a muoversi, indossò anche cappello e cappotto. «Beh, arrivederci», disse. Lui si scosse. «No, aspetti, l'accompagno a casa. Facciamo due passi insieme». Sembrava che volesse protestare, ma poi disse: «D'accordo». Nella dimora dell'umanista. Quando per la prima volta vi mise piede, Frederica non riuscì ad apprezzare Long Royston, sebbene ne avesse avuta l'intenzione. Al pari dell'Everest, scalato proprio quell'anno, era sempre stata lì, ma inaccessibile. Ora Frederica, invitata dal proprietario, ne attraversava i giardini e arredavasi secondo le istruzioni di Crowe, ovvero più o meno in base alle prescrizioni di Francis Bacon nel saggio dei giardini. Frederica vide alcune persone che passeggiavano calpestando quell'intrico di vialetti così coltivati, facce conosciute, facce sconosciute, facce che fotografie e manifesti avevano reso familiari. «Ora ci si diverte», pensò Frederica. Quando entrò si sentì meno euforica. C'era un maggiordomo in livrea bianca che le prese impermeabile e nome. C'era Crowe, il quale esclamò «Che carina!» e passò oltre. C'era un giovanotto in giacca di velluto a coste azzurro pavone che stava esaminando una scultura. il viso nascosto per metà dietro enormi lenti acquamarina. Si erano riuniti per un incontro preliminare, prevedere i costumi e perché Crow pensava che sarebbe stato divertente. Per pranzo sedettero nel salone, sotto la tribuna dei menestrelli, 15 a tavola. I probabili attori protagonisti, il triunvirato e le costumiste, la moglie del decano di Calverley e un tale del Covent Garden che si era lasciato sedurre da Benjamin Lodge. Marina Yeo, troneggiante fra Crow e Alexander, concionava sull'importanza dei costumi. Frederica, l'altro capo del tavolo, tra il giovanotto acquamarina che non si era mai tolto gli occhialoni, e Jennifer Perry, che avrebbe interpretato Bess Throckmorton e che, essendosi appena aggiudicata in quell'enorme cast un ruolo di rilievo, la osservava con aria critica. «I costumi hanno un'importanza straordinaria a teatro», stava dicendo la signorina Yeo. «In scena si è effettivamente ciò che si sembra. In qualche misura si è sempre alla mercé dei costumi. Avrai una magnifica camicia da notte per morire questa volta», la rassicurò Crow. «Aspetta e vedrai. I costumi sono disegnati dall'autore stesso. Una novità». «Davvero?» esclamò la signorina Yeo, rivolgendo tutta la sua attenzione ad Alexander, che si sentì obbligato a corteggiarla. Frederica e Jennifer Perry lo osservarono entrambe per vedere come se la sarebbe cavata. Jennifer furtiva, Frederica in modo diretto. Come aveva previsto, se la cavò male, balbettando impacciato, visibilmente insincero, cosa che in realtà non era. «Non ho afferrato il tuo nome», disse il tizio con gli occhialoni, posandoli su di lei e sollevando la faccia sotto le altre finestre, così che qualche riflesso guizzò sulle lenti iridescenti. «Credo di conoscerti». «Ne dubito, sono Frederica Potter». «Ah, invece sì, la figlia di Bill Potter, la secondogenita, la scontrosa». Frederica si ritrasse e disse: «Come...» Poi ne riconobbe i modi. «Lei, tu sei Edmund Wilkie. Cosa ci fai qui?» «Sono Sir Walter Raleigh, mia cara. Il bambino prodigio torna all'ovile per fare scalpore e smentire la profezia. E tu, perché sei qui?» «Io sono Elisabetta, fino a quando Marina Yeo sarà abbastanza vecchia per interpretarla. Per essere lei, non so se mi spiego». «Perfettamente, avrai di che divertirti. Ti toccherà di imparare i suoi manierismi. Non è difficile, sono molto marcati». «Non riesco a vederti in faccia», protestò Frederica. «Quegli occhiali sono sconcertanti. Non ricordavo che avessi bisogno degli occhiali». «Infatti non ne ho bisogno. Sono sperimentali, progettati da me. Una spiegazione dell'effetto dei colori intensi sull'umore. Ne ho diverse paia: marroni, dorati, blu, grigio fumo, viola fumo, cremisi e comune rosa. Tengo un lungo e dettagliato inventario dei miei umori e reazioni e faccio tenere alla mia ragazza un registro di controllo. Finora l'unica cosa di cui siamo entrambi assolutamente certi è che più sono maleducato». «Si direbbe che al giorno d'oggi tutti si facciano un punto d'onore nell'essere maleducati», disse Frederica. «Verissimo, è un modo facile di sembrare arguti. Perciò, ti prego, cerchiamo di essere rivoluzionari e educati. Dimmi cosa pensi del tuo alter ego, l'altra Elisabetta». Edmund Wilkie era l'eroe anticonformista di Blatchford Ride. Aveva superato gli esami di maturità con incredibile facilità, prima nelle discipline umanistiche, poi in quelle scientifiche. Quindi era andato a studiare psicologia a Cambridge, al King's College, dimostrando uno straordinario talento, a quanto si diceva. Inoltre, con una folgorante carriera, era diventato un attore di fama nazionale. Aveva scritto, messo in scena e interpretato un varietà intitolato Notturni per di giorno, che per un breve periodo era stato in cartellone a Londra, e aveva interpretato per la Marlowe Society un Amleto del quale Harold Hobson aveva scritto: «Il principe di Danimarca più intelligente e meno retorico che abbia onorato le nostre scene da che mi ricordo». Era il tipo di allievo di cui gli insegnanti auspicano in segreto il fallimento, tanto era stata spensierata, arrogante, priva di sforzi e ingrata la carriera scolastica. Sul suo conto scrissero tediose referenze che Cambridge ignorò. Era stato Alexander a pensare di invitarlo a tornare per interpretare Raleigh, l'uomo dalle molte facce, arrivista, poeta, ciarlatano, scienziato, ateo, soldato, marinaio, storico, prigioniero. Agli occhi di Frederica, Wilkie costituiva la prova vivente che si poteva fuggire da Blessford verso la vita movimentata e seducente della metropoli. Bill era prevenuto rispetto a Wilkie, il che oscuramente ne confermava il brillante ingegno e forse qualcosa di più. Frederica si impegolò in una serie di educate osservazioni sulla signorina Yeo, il cui succo fu che la trovava molto disinvolta fisicamente e verbalmente. «Le ragazze dotate di cervello come te credono che tutto si faccia con la testa. Non c'è niente di male nell'avere cervello. Non è il caso di inalberarsi, mia cara. Non ho mai detto questo. Adoro i cervelli. Sono il mio lavoro». «Dicono che ti diventerai uno strizzacervelli». «No, no, no. Uno psicologo accademico. Intendo studiare le relazioni tra percezione e pensiero. Non la libido, cara ragazza. Il pensiero. Il supremo narcisismo. Il cervello che misura le proprie pulsazioni e fluttuazioni. Le radici della conoscenza». Nel frattempo, Crowe si stava alzando per fare le presentazioni. Tre attori professionisti, uomini di Stratford e dell'Old Vic, che avevano recitato in film di Laurence Olivier. Max Baron, alto, magro, inquieto, avrebbe interpretato Lester. Crispin Reed e Roger Braithwaite sarebbero stati rispettivamente Barley e Walsingham. Bob Grundy, della compagnia del teatro di York, altro professionista scelto per Essex, si stava già facendo crescere la barba. Poi Crowe passò alla presentazione dei dilettanti. Thomas Poole era un uomo robusto, biondo, taciturno, amico di Alexander, e avrebbe interpretato Spencer, il poeta saggio e compassato. Le donne, oltre a Marina Yeo e Frederica, sua giovane ombra, come la definì Crowe, erano una compita e appassionata insegnante di Calverley, perfetta per Maria Tudor, la signorina Annette Turnbull, che interpretava la Lady Lennox, e la signora Marion Bryce. La sua parte, sebbene drammatica, era breve, perché Alexander detestava Maria Stuarda, regina di Scozia, e aveva fatto sì che la sua presenza fosse percepita soprattutto come minacciosa assenza. C'era anche Jenny, che non ci sarebbe stata se Alexander non l'avesse particolarmente desiderato. Era già stanca dei faticosi tentativi di conversazione durante il pranzo. Apprendendo che sulla scena sarebbero stati marito e moglie, lei e Wilkie si erano abbandonati a scontate esclamazioni. Wilkie le aveva chiesto se recitava spesso. «Oh, no, ho un bambino piccolo, molto piccolo. Non esco molto. E lei?» «Potrei farne la mia professione, ma credo che resterò fedele alle cellule grigie». Frederica si intromise nella conversazione. Lei voleva fare l'attrice, suo padre era fissato con Cambridge, ma lei temeva che Cambridge fosse una distrazione. Il luccichio acquamarina di Wilkie si spostò su di lei. Serissimo, disse che al momento non c'era niente di meglio di Cambridge per debuttare e, nei momenti di riposo, avrebbe potuto insegnare, meglio che fare la cameriera nei caffè. Ma Frederica non aveva nessuna intenzione di insegnare. «Qualunque cosa, ruggì, ma non insegnare. Un mestiere per buoni a nulla. Lei voleva essere brava». «Anche i bravi riposano», disse seccamente Wilkie, ma aggiunse alquanto bonario che è impossibile eccellere senza sgobbare, questo sì. Jenny era intimorita da quei ragazzi presuntuosi e brillanti. A 24 anni era vecchia, sebbene avesse solo un paio d'anni o forse neppure meno di Wilkie. Erano ambiziosi. Si vedevano salire in alto, sempre più in alto, poi via, chissà dove, mentre il suo orizzonte era strettamente limitato da Blessford Fly. E al di là, cos'altro se non, con un po' di fortuna, brandelli di quel disprezzato insegnamento. Aveva cercato di catturare lo sguardo di Alexander, per esserne almeno sessualmente rassicurata, ma stava avvolgendo una stola intorno alle spalle della signorina Yeo. Tentò di nuovo di attirare l'attenzione di Wilkie, chiedendogli quale fosse la sua ricerca, quali processi del cervello studiasse. Le relazioni tra immagini visive e linguaggio. In sostanza, in che modo si formano i concetti? Si possono studiare relazioni interessanti tra memoria visiva, memoria concettuale e pensiero analitico. Frederica, eccitatissima, si intromise di nuovo. «Mio fratello faceva calcoli matematici istantanei. Li fa ancora? Potrebbe farli anche adesso? E come li fa? Che tipo di cose faceva? A dire il vero, rispose Frederica, e cominciò a raccontare una versione molto ingarbugliata della caduta del genio matematico di Marcus, che fu interrotta da Crow. Comunque, non si può diventare invisibili a 24 anni, pensò Jennifer. Crow condusse i suoi ospiti in biblioteca, dove erano esposti alcuni schizzi e modellini. Sul tavolo c'erano i disegni di Alexander. Da principio non pensava di farli vedere a nessuno. È stato Crow, dopo avergli carpito l'informazione sull'esistenza di quei disegni, gliene aveva sottratto un fascio. Alexander aveva dato ad alcuni modelli il volto dell'originale e ad altri quello degli attori che li avrebbero interpretati. Rayleigh, in velluto nero illuminato di perle, era Rayleigh. Lester, pur col suo tenue accenno di barba, scrutava con l'inquieto cipiglio di Max Baron. I costumi della regina erano abitati da volti e figure mutevoli. Sulla camicia da notte plissettata appariva un volto ibrido, la grande bocca e il collo sinuoso di Marina Yeo, con le sopracciglia depilate e la parrucca torreggiante di Elisabetta. Federica trovò i suoi costumi che le piacquero, un abito bianco e oro per la prigionia, uno bianco e oro per correre nel frutteto di Catherine Parr. Fu delusa nel vedere che il viso sopra i disegni era un ovale vuoto. Alexander si era segretamente compiaciuto disegnando Bess Throckmorton. L'aveva dipinta ad acquarello e le aveva attribuito il viso minuto, nervoso e avido di Jenny, racchiudendo nei seni rotondi che ben conosceva, nell'immensa gorgiera di pizzo della vera Bess. Alexander si concesse il piacere di osservare Jenny mentre studiava se stessa nella luce soffusa del boschetto da lui dipinto con tanta precisione, e si tolse lo sguardo quando lei esclamò: «Riconosco la donna sullo sfondo del cespuglio. Suavissimo valzer!» declamò Wilkie alle loro spalle. «Deliziose sottovesti, signor Wedderburn. Avrò modo di godermele.» Frederica afferrò il braccio di Alexander, che s'apprestava a seguire Jennifer. «Preso!» Alexander, che aveva davanti un'intera estate da dedicare a Jennifer, le fu grato. «Voglio mostrarti una cosa, Frederica. Guarda.» Da un involto di carta marrone estrasse una striscia lunga e stretta di velluto rosso scuro. Qualcosa che il tempo ha dimenticato. L'ha trovato Crow. Aveva fatto rivestire delle poltrone e l'ha trovato arrotolato nell'imbottitura. Nuovo come quando ce l'hanno infilato sotto Giacomo I. A te piacciono le cose, Alexander. A te no? Non ci sono abituata. Ho il sano rispetto della gente dello Yorkshire per una buona matassa di lana e un coltello ben affilato. Niente di più. Forse alla tua età. La vita guadagna spessore con gli anni. Non so se alla tua età sarei stato altrettanto ammaliato dagli oggetti di questa casa. Per me è troppo. Non riesco a vederla. Appartengo alla generazione dell'austerità. Per noi burro, panna, arance e limoni sono infiniti dolori, che lo sai. Papà ci si trovava bene. Pane comune, sedie scomode, uova in polvere e margarina. Questa profusione di sculture e tendaggi mi mette a disagio. Alexander si rivolse a Crow. Frederica mi sta dicendo che non riesce a interessarsi ai tuoi oggetti per colpa della guerra. Crow la guardò inarcando le sopracciglia argentate. Sono sicuro che non è vero. È così, mi intimidiscono. Ce ne sono troppi. Non se li conosci. Ti mostrerò la mia bella casa e ti insegnerò a vedere i dettagli. Cominceremo dagli stucchi del salone. Li hai visti? Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.